Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo del libro La Calabria sottosopra, un libro scritto da Nino Amadore, corrispondente del Sole 24 Ore da Palermo. Buonasera Amadore. Buonasera, buonasera a tutti. E con noi c'è anche Francesco Gaeta, anche lui giornalista del Sole 24 Ore, che per questo libro ha scritto la prefazione. Buonasera Gaeta. Buonasera. Buonasera. Allora, un libro che parla della Calabria, parla del Mezzogiorno. Nino Amadore è un grande osservatore di tutta la realtà del Mezzogiorno e Gaeta nella sua introduzione scrive: il calabrese non conosce il futuro in senso linguistico. E allora questi due aspetti, la Calabria che ha in fondo una vista corta, non conosce il futuro ed è sottosopra. Come mai questo titolo e come mai questo giudizio? Francesco Gaeta. Ma intanto il calabrese non conosce il futuro proprio da un punto di vista linguistico, nel senso che nel dialetto di quella regione non esiste il tempo futuro. È un paradosso linguistico, ma è anche una metafora probabilmente di qualcos'altro, cioè di una struttura psicologica, antropologica, profonda, che evita il tempo futuro, cioè si ricorre a una circonlocuzione per dire farò, si dice devo fare. Ecco, noi siamo partiti da qui, dico noi perché Nino è un amico, oltre che un collega di antica data, ci lega un comune lavoro sul Mezzogiorno, siamo partiti da qui per ragionare su quale futuro possibile esiste per questa regione, e il titolo, che non ho scelto io ovviamente, ha scelto Nino, esprime bene, secondo me, una condizione esistenziale che si associa appunto a quella che è relativa all'assenza di futuro. E appunto Calabria sottosopra perché sembra che in questa regione tutti i canoni abituali con cui interpretiamo la realtà sociale e politica vengano in qualche modo sconvolti, vengano capovolti. Questa almeno è l'idea di Nino. Ecco, allora sentiamo l'interpretazione autorevole, autorizzata, del perché questo titolo. Nino Amadore, perché la Calabria sottosopra? Sì, è esattamente quello che diceva Francesco, una regione capovolta, ma non capovolta nel senso sottosopra, sconquassata da una serie di problemi, di limiti, di ferite, insomma, che l'hanno resa priva di futuro, priva di speranze in qualche caso, non in tutti i casi, ma in qualche caso è veramente così. Questo è il senso del titolo, ma questo è anche un po' l'analisi del libro. Dicevi bene prima, è un libro che parla della Calabria, ma cerca di dare anche un senso a una lettura anche al Mezzogiorno, perché poi alcuni parecchi problemi della Calabria sono comuni alle altre regioni del Mezzogiorno. Ecco, allora non è il fatto che tu da siciliano guardi la Calabria dal basso in alto, qualcosa. Che differenza c'è appunto proprio come Mezzogiorno tra la realtà del Mezzogiorno, ma direi forse più la realtà siciliana, e quella calabrese? Ma la realtà calabrese è più parcellizzata proprio per la dimensione dei comuni, per il numero di comuni, per la presenza sul territorio, per una serie di motivi è più parcellizzata, così come più parcellizzata è l'organizzazione criminale, l'Ndrangheta, che proprio per questo, cioè questa è la sua dimensione, mentre in Sicilia abbiamo delle aree ad alto tasso, ad alta presenza di criminalità organizzata, ma con comuni, con organizzazioni, con aree un po' più solide, più forti, con diciamo una dimensione un po' più ampia dell'organizzazione sociale. Sembrano cose da poco, ma sono cose parecchio diverse, perché in un comune di 1000 abitanti dove è presente un'andrina, la criminalità, o anche solo una famiglia di 8-10 persone, in 1000 abitanti questa famiglia riesce ad avere un forte influsso sul resto del paese, mentre in un paese di 15-20 mila abitanti è un po' più complicato. E quindi persino la dimensione di equilibrio tra la società onesta, tra il mondo degli onesti e quello dei disonesti, cambia, perché ovviamente in un posto molto grande la dimensione, il controllo criminale diretto è un po' più complicato, anche se come ha dimostrato in Sicilia è sempre possibile, anzi purtroppo quasi sempre avviene. Ecco, tu nelle prime pagine del libro dici che ci sono due Calabrie, quella degli onesti e quella dei disonesti. Possiamo valutarle in termini di presenza, in termini di forza? Quanto grandi sono queste due realtà? Allora, io mi sono convinto che la Calabria degli onesti è una maggioranza, ma è una maggioranza che non riesce a esprimersi, che non riesce a parlare, che non riesce a tutelare il proprio interesse di cittadino onesto. Poi c'è diciamo, questa maggioranza però in qualche caso è anche fin troppo acquiescente rispetto a quell'altra parte che è la Calabria dei disonesti, perché forse perché si è troppo abituata a delle regole che non sono delle regole di civiltà, che sono le regole della criminalità. Poi ci sono quelli che possiamo dire che fra un'area e l'altra in qualche modo potrebbe anche esserci un'area in cui, una zona in cui le persone sono predisposte, oneste ma predisposte a un certo tipo di atteggiamento. La Calabria degli onesti esiste ed è diffusa, però questo silenzio ha fatto sì che diventasse che non si notasse, che non ci fosse una differenza visibile. In effetti oggi quello che vediamo, non per essere pessimisti, è la Calabria dei disonesti. Vediamo lo sfascio totale negli enti locali, alla regione, diciamo in quasi tutti i settori di quell'area. E quindi mi pare evidente che se noi ci occupiamo di comunicazione, forse gli uffici stampa dell''Ndrangheta riescono a comunicare meglio, anche se non sono ufficiali. Ecco, però volevo magari sottolineare che nella Calabria positiva, nella Calabria degli onesti, nella Calabria che fa iniziative costruttive per il territorio, ma anche al di là del territorio, va sicuramente messo anche l'editore Rubettino di Soveria Mannelli, che edita questo libro di Dino Amadore, La Calabria sottosopra, e che rappresenta in fondo una realtà molto attiva, molto dinamica all'interno della struttura economica calabrese e direi per la sua ormai notorietà anche italiana. Amadore. Sì, Rubettino è una bella realtà. Sono andato l'altro giorno a visitare lo stabilimento, la sede a Soveria Mannelli, che è un paese in alto, un paese di montagna, come tanti ce ne sono in Calabria, ed è veramente una bella realtà, una realtà giovane, un posto bello, ecco, un'impresa che funziona, un modello. Ovviamente non c'è solo Rubettino, per esempio io penso, mi viene da pensare a Caffo, ad altre aziende che in Calabria, soprattutto quelle aziende che non sono legate a settori tradizionali, a settori che dipendono dalla pubblica amministrazione, che sono sganciate dal territorio, sono aziende che producono, fanno bene, esportano parecchio, danno una bella immagine del Mezzogiorno, di se stessi e anche di quella regione. Quindi è possibile cambiare, questo quello che fa, diciamo, che proprio provoca sconcerto, ha provocato sconcerto in me, anche Florindo Rubettino, che è stato presidente dei giovani industriali della Calabria. Cioè, è possibile fare qualche altra cosa e qualcosa di positivo, e quindi questo libro è anche una provocazione, vuole essere un po' una provocazione. Ecco, in questa prospettiva io chiederei a Francesco Gaeta anche l'informazione ai suoi doveri di portare da ribalta i dati positivi che ci sono in una realtà come quella calabrese. Troppo spesso parliamo solo dei dati negativi, che purtroppo ci sono anche quelli. Francesco Gaeta. Sì, assolutamente, proprio così. A questo proposito, e a proposito di maggioranze silenziose, vorrei citare una manifestazione che è stata organizzata da un quotidiano locale qualche tempo fa e che ha portato in piazza diverse migliaia di persone, tra cui molti, molti giovani. Protestavano, questa era la ragione della manifestazione, contro un attentato ai danni del procuratore generale di Reggio, una questione che Nino ha seguito anche sul Sole 24 Ore e conosce molto bene. Ecco, in quel caso un quotidiano è stato all'origine di una protesta civile sana, in cui io personalmente ho visto con orgoglio, diciamo quasi personale da calabrese, ho visto scendere in piazza diciottenni, ragazzi liceali, ragazzi dell'università, che appunto protestavano contro la mafia. E credo che questo sia uno dei tratti di differenza tra Calabria e Sicilia. Tu prima, Gianfranco, ne accennavi, cioè la storia della mafia siciliana è una storia drammatica fatta di bombe, ma anche di risposte forti della società civile, dopo le stragi di Falcone e Borsellino ci fu la cosiddetta primavera siciliana, fatta di appunto anche lì manifestazioni. Io e Nino eravamo molto giovani, avevamo meno circa 18 anni all'epoca, ce la ricordiamo abbastanza bene. In Calabria è mancata una risposta del genere. Allora, vedere tanti giovani scendere in piazza, per giunta sulla scorta di una manifestazione gestita da un quotidiano, è consolante, è un dato nuovo e speriamo che non sia l'unico, l'ultimo. Ecco, per concludere allora, Nino Amadori, una ragione in 10 secondi per comprare questo libro, perché dà fiducia? Sì, perché dà fiducia sicuramente, poi per capire, per comprendere meglio quello che è la Calabria, il Mezzogiorno, e per capire il modello che i calabresi hanno utilizzato e utilizzano per espandersi e per consolidarsi in altre regioni del paese. I calabresi disonesti, dico, quelli onesti hanno dimostrato di saper fare. Grazie mille, grazie a Nino Amadori. Abbiamo parlato del libro La Calabria sottosopra, edito da Rubettino. Sono 120 pagine per 12 euro. È un libro appunto che racconta la realtà calabrese in tutti i suoi aspetti, gli aspetti positivi e anche quelli negativi, ma con un'ottica di voler valorizzare anche quanto di positivo c'è. Ne abbiamo parlato con Nino Amadori e con Francesco Gareta, che ringrazio, così come ringrazio Carmelo Lauricella, Ditta Panizza di redazione, e appuntamento per la prossima settimana.